Bionda Rossa, ciao Olga, ci senti? Ciao, ben trovate, un saluto a chi ci ascolta da Radio Blackout e anche da Radio Onda Rossa che sta mandando in streaming il segnale, sappiamo. Sì, siamo molto felici di questa collaborazione in questo appunto purtroppo non felicissimo evento, ma ti chiediamo appunto di darci un resoconto di cosa sta succedendo lì all'Aquila dal presidio. Sì, noi ci troviamo sotto il Tribunale dell'Aquila, siamo una sessantina di femministe e lesbiche di Roma, di Bologna e di Firenze, per ora insomma le città che sono riuscite a raggiungere l'Aquila in questa comunque giornata lavorativa. Siamo il Tribunale dell'Aquila, vabbè, per chi non lo sapesse, si trova in una zona industriale, l'Aquila è completamente dislocata, diciamo, ormai in tutte, quindi siamo sostanzialmente in una zona industriale dove l'unico passaggio è di camion oppure di chi va e viene qui dal tribunale, quindi l'intenzione è anche a un certo punto della giornata di spostarci in luoghi un pochino più affollati per fare dei volantinaggi anche. Intanto siamo qua sotto anche per solidarizzare ovviamente con la giovane donna che in queste ore insomma sta affrontando la prima udienza di un processo che sappiamo già sarà molto difficile, anche perché ovviamente la vede sola contro un militare in questo caso, in generale insomma diciamo dei poteri abbastanza forti costituiti che evidentemente insomma renderanno difficile, come tutti i processi per stupro, ma questo forse particolarmente. Il tribunale si trova tra l'altro in una ex caserma della finanza, quindi tanto per dare un'idea, qui è pieno di finanzieri, ci sono i militari che come in tutta l'Aquila presidiano i palazzi, le zone insomma istituzionali, quindi non siamo senz'altro in buona compagnia al momento. Ci sono alcuni striscioni che noi abbiamo portato, uno principale che dice la violenza degli uomini contro le donne ci riguarda tutte, poi ce n'è un altro con o senza divisa guai a chi ci tocca e poi un altro striscione per ogni stupratore con o senza divisa vita breve e sofferta. Queste insomma le striscioni che abbiamo portato, ci sono dei cartelli e al momento siamo qua, ora sentite silenzio perché in questi minuti stanno decidendo la costituzione di parte civile del centro antiviolenza dell'Aquila in questo processo che non è per niente scontata e quindi ci hanno chiesto, insomma, visto che l'aula è proprio qui adiacente in un prefabbricato, di non fare slogan, quindi ci avete beccato nell'unico momento un po' silenzioso insomma del presidio. Ci sono anche appunto le donne del centro antiviolenza dell'Aquila, alcune, ecco, abbiamo ripreso, anche alcune donne dell'Aquila, alcune donne di Tivoli che sono venute e insomma il presidio sarà qui fino a che non abbiamo qualche notizia relativa all'udienza che potrebbe essere in realtà anche molto breve, essendo la prima, non sappiamo appunto. Comunque l'idea è eventualmente poi di spostarci a volantinare. Senti Olga, dicevate che non siete in buona compagnia, è militarizzato anche lì fuori dal tribunale, ma invece per quanto riguarda la presenza dei giornalisti, volevo sapere un po' se, perché abbiamo fatto una breve ricognizione in rete e non abbiamo trovato insomma sui siti notizia dell'apertura del processo, può essere poi che magari ne parlino più tardi in mattinata. Sì, lì invece crediamo che ne parleranno perché qui ci sono in realtà i giornalisti, ci sono soprattutto quelli dell'Aquila, ci sono delle telecamere di Rai News, quindi pensiamo che verrà mandata, insomma, del resto era una notizia che all'epoca finì insomma bene o male, forse più male che bene sui giornali e quindi sì, ci sono anche parecchi giornalisti, motivo per cui forse tra l'altro verrà deciso di fare il processo a porte chiuse e questo impedirà ad alcune di noi che in questo momento comunque stanno dentro l'aula eventualmente di assistere, però insomma ecco, stiamo aspettando che decidano al riguardo. Certo è che l'Aquila è un territorio difficile, insomma lo vediamo anche nell'organizzazione di questo presidio, insomma è proprio difficile intercettare anche le persone, una città completamente dislocata, per cui immaginiamo che qualche volantinaggio si possa fare nei centri commerciali che sono, hanno sostituito le piazze. Il centro dell'Aquila è ancora completamente smantellato, c'è solo una via principale dove non passa ormai quasi più nessuno ed è veramente pieno di militari, camion che continuano a passare, carri, insomma è una situazione chiaramente difficile. Noi siamo qui ovviamente come pratica anche insomma dei gruppi di femministe e lesbiche in solidarietà con le donne che si trovano appunto dentro i processi per stupro e quindi adesso qua fuori stiamo anche facendo un discorso generale sul fatto che appunto in realtà a stuprare le donne sono mariti, ex fidanzati, il datore di lavoro, in questo caso anche un servitore della patria, insomma, e sappiamo che gli uomini in divisa, diciamo, il loro privilegio maschile in qualche modo viene alimentato anche dalla divisa, insomma. Vediamo anche come andrà questo processo.